Allora, ciao a tutte, ciao a tutti, benvenute, benvenuti, siamo molto contenti di avervi qua e vorremmo un attimo raccontarvi chi siamo, perché per chi non ci conosce oppure ci conosce soltanto via rete o per i documenti che abbiamo prodotto. Come Assemblea No Green Pass Roma, abbiamo cominciato a riunirci per un desiderio personale di trovare degli affini, per un desiderio politico di provare a porre un argine a quello che sentivamo che stava succedendo e che era veramente devastante. All'inizio eravamo un insieme molto variegato. Adesso l'assemblea è composta soprattutto da persone che appartengono alla sinistra antagonista, diciamo così per semplificare, ecco, per la maggior parte. Appunto, non è stato sempre così e man mano si è venuta formando questa configurazione che abbiamo adesso, perché discutendo nelle assemblee e via dicendo, abbiamo cominciato a porre dei paletti, cioè praticamente a fissare dei principi a cui ci volevamo rifare. Uno era per esempio il mantenimento della discriminante antifascista, anche se riconosciamo la fascistizzazione della società che è stata portata avanti da tutti i partiti neoliberisti, quindi in primis dal PD, annessi, connessi e collaterali, che hanno praticamente permesso poi anche questo tipo di agire dello Stato e del sistema di potere, perché hanno trovato terreno fertile in un'opinione pubblica che era già impostata in un certo modo. Comunque ci siamo trovati davanti a una situazione abbastanza complessa, perché le proteste rispetto alla situazione pandemica e a tutto quello che si portava dietro erano composte da piazze molto variegate, molto spurie, che avevano all'interno anche delle componenti fasciste, che non erano determinanti, non le abbiamo mai trovate tali, e anzi, quando hanno provato a prendere il sopravvento o comunque a porsi in maniera più determinante, sono state tutto sommato escluse e messe in minoranza. Però abbiamo deciso di attraversare queste piazze spurie e variegate ponendoci un problema, cioè ponendoci il problema di essere un riferimento con una visione di classe, con una visione di sinistra di classe, perché in effetti la sinistra di classe è stata non solo assente e noi ci siamo trovati completamente isolati, ma anche in moltissimi casi collaborazionista. E quindi questa cosa ha determinato una necessità che ci siamo posti di essere un riferimento, di provare ad essere un riferimento all'interno di quelle piazze con delle parole precise e determinate, e allo stesso tempo essere un riferimento, provare a essere un riferimento per tutte e tutti quelli che si trovavano spiazzati come noi, perché noi in effetti ci siamo sempre sentiti che una parola che ci ha sempre fatto ridere, ma che in effetti è molto vera, degli scappati di casa, perché tutte le situazioni di movimento da cui venivamo, femministe comprese, di cui alcune di noi fanno parte, perché siamo della coordinamento femminista e lesbica che fa parte dell'Assemblea No Green Pass, tutte le componenti di movimento erano, se non appiattite, addirittura, diciamo, entusiaste partecipi delle scelte del potere. Quindi, queste due caratteristiche, cioè il fatto di porsi come riferimento di classe, ci ha portato a tirar fuori da una parte un'analisi e dall'altra anche delle parole con cui scendere in piazza, che erano sempre derivate dall'analisi che ritenevamo giusta in quel contesto, tipo rispetto al Green Pass, assolutamente no Green Pass, ma nessun documento, nessun permesso per circolare, nessun permesso per lavorare, e, oppure la guerra comincia qui a casa nostra, oppure il nemico è a casa nostra, cioè tutta una serie di prese di posizione che ci avremmo voluto che ci caratterizzassero. Dopodiché ci siamo resi conto che il malessere era assolutamente trasversale, attraversava diversi gruppi e strati sociali, però la risposta non poteva essere interclassista, e quindi questa presa di posizione ha determinato poi tutta una serie di decisioni, quella di essere presenti costantemente in piazza, nel senso abbiamo scelto di essere tutti i sabati a Piazza San Giovanni, il fatto di essere presenti in centro e nelle piazze di periferia, il fatto di essere presenti in contesti diversi, fare le azioni per esempio sugli autobus, alle poste, anche in contesti come quello della Tiburtina, dove sono presenti diverse fabbriche che fanno componenti per l'industria di guerra, e anche una piazza femminista il 27 di novembre, perché il movimento femminista, nonostante il corpo è mio e lo gestisco io, sia un punto fermo e cardine della nostra lotta, invece era stato completamente dimenticato. E quindi tutto questo tipo di posizionamenti, tutto questo tipo di tentativi di portare a sintesi diversi ambiti, anche con gli studenti, no, Green Pass, con la scuola, con gli insegnanti, quindi abbiamo attraversato diversi ambiti che pensavamo e pensiamo ancora debbano trovare una sintesi in una lotta comune. E comunque la caratteristica che continua a informare le lotte, continua a cercare di essere la caratteristica dominante di questa assemblea, è quella di renderci conto che tutta la caratteristica degli stati di emergenza, del disciplinamento sociale, del no Green Pass, è sicuramente soltanto un punto di partenza rispetto a un progetto che ha in mente il capitalismo neoliberista e che intende portare a termine. Quindi non è che qualcosa è finito adesso con quello che dicono la fine della pandemia o il Green Pass non c'è più, eccetera, ma si parte da qua. E infatti noi abbiamo chiesto questo incontro per trovare dei nessi comuni, delle modalità comuni per andare avanti, per fare in modo che uno sforzo che abbiamo fatto in questi anni, magari lo ritroviamo in voi, possiamo portare avanti un discorso collettivo. Infatti lascio la parola, per questo abbiamo messo nero su bianco e abbiamo fatto questo opuscolo che condensa da una parte il pensiero che abbiamo sviscerato in questi anni, che viene da un incontro e da uno scontro sempre fra pratica e teoria, teoria e pratica, per cui abbiamo pensato potesse essere utile. Adesso passo la parola a Margherita che ve lo illustra un attimo. Tieni tu? Sì, tengo io. Ciao a tutte e tutti. Mi prendo il compito di cercare di fare una sintesi dell'opuscolo per chi non avesse avuto modo di leggerlo e poi per, diciamo, cercare di mettere una cornice alla discussione che poi speriamo, insomma, possa portare e vertere sulle forme di lotta su cui vogliamo rilanciare il percorso, però per questo anche per individuare dei punti fermi, dei segmenti di tutto questo attacco complessivo che stiamo subendo, provo a fare questa sintesi. Questo opuscolo è un po' il risultato di tutte le questioni e le piazze che abbiamo attraversato in questi due anni, infatti alla fine molto del testo che c'è qua è uscito in prima battuta in forma di comunicati o di volantini dati nelle piazze, eccetera, eccetera. Quindi cerca di riassumere un po' tutti i punti che abbiamo affrontato. Dall'inizio comunque questa assemblea, da quando si è costituita a settembre del 2020, giusto? Abbiamo... Cosa? 21. Sì, settembre 2021. Due anni sono passati. Abbiamo impostato subito il discorso su una lotta contro il Green Pass e contro l'obbligo vaccinale, a partire dall'interpretazione chiaramente della pandemia come una sindemia e quindi come la necessità di rifiutare tutti gli strumenti di controllo e di gestione autoritaria che il potere stava mettendo in campo come singoli elementi di una strategia più complessiva di ristrutturazione socio-economica, chiaramente a danno di tutte le classi subalterne, un progetto che chiaramente non è nato con la pandemia ma che ha trovato, questo ci ha unito diciamo come visione fino all'inizio, ha trovato in questo periodo emergenziale, come in altri contesti emergenziali prima, delle occasioni di accelerazione. Una di queste accelerazioni infatti si è compiuta sul terreno della digitalizzazione, cosa su cui ci siamo concentrati fin dall'inizio, perché appunto il Green Pass non è stato soltanto appunto un lasciapassare, ma è stato un lasciapassare utilizzato tramite una piattaforma digitale che quindi riesce a estendere la capacità di schedatura, di valutazione, di controllo e quindi di irregimentazione della popolazione a livelli di un'efficienza, diciamo forse con dei salti di qualità rispetto a vecchi sistemi di schedatura. E dando centralità alla lotta contro il Green Pass, chiaramente una conferma della necessità di rifiutarsi di utilizzare il Green Pass veniva data anche dal fatto che effettivamente tra la campagna vaccinale e il Green Pass il rapporto era invertito rispetto a quanto lo presentavano, cioè ci hanno presentato il Green Pass come uno strumento per sollecitare la popolazione a vaccinarsi, ma in realtà è stato più che altro il vaccino a rappresentare uno strumento per indurre la popolazione ad accettare dei sistemi di controllo che non riuscivano a passare. Infatti all'inizio della pandemia ci si lamentava alle alte sfere che lo SPID non venisse scaricato ed utilizzato da un numero sufficiente di persone, infatti erano soltanto meno di 10 milioni le persone, addirittura 4 in un primo discorso di Conte, e poi invece dopo il periodo pandemico siamo arrivati a 32-33 milioni, adesso credo che siamo anche in salita. Come è stato anche un contesto in cui, diciamo quindi in questo senso, il Green Pass, vero strumento in qualche maniera finale, rappresenta un prototipo di tantissime altre forme di disciplinamento che possono essere, che sono state già introdotte a livello di patenti del buon cittadino. Ci sono vari esempi in giro per le città che credo tutti conosciamo, che si basano fondamentalmente su questo doppio binario di misure repressive apertamente estorsive del consenso e invece anche misure premiali per indurre le popolazioni non soltanto tramite la coercizione ma anche diciamo appunto attraverso questa tecnica di persuasione ad adottare certi comportamenti. Abbiamo infatti la digitalizzazione, da quello che abbiamo cercato, insomma il discorso che abbiamo cercato di fare e da cui deriva poi un posizionamento rispetto a come si può lottare contro queste forme, crea fondamentalmente dei contesti obbliganti in cui non ti viene detto che non puoi fare una cosa, ti si lasciano delle facoltà illusorie, chiaramente all'interno di uno spazio in cui la tua facoltà di scelta in sottrazione è una sottrazione molto pesante. Tutti quelli che hanno deciso o di non vaccinarsi o anche di vaccinarsi ma di non utilizzare il Green Pass durante la pandemia hanno perso il lavoro oppure sono stati esclusi dalla vita sociale, cose che diciamo un meccanismo di condizionalità che è destinato e si sta infatti estendendo ad esempio con non soltanto con strumenti come il fascicolo sanitario elettronico, l'identità digitale eccetera eccetera, ma anche con tutti gli strumenti di regolamentazione dei flussi. Ad esempio anche diciamo con il pretesto della lotta al cambiamento climatico, così come è stato usato il pretesto della lotta, anzi della guerra al virus, come l'hanno chiamata, adesso nella città di Roma hanno limitato fortemente la circolazione di tutti i veicoli creando una fascia verde, un provvedimento iperclassista per cui adesso da un giorno all'altro le persone che hanno la macchina con un filtro che non è Euro 6, 8 non possono circolare più da un giorno all'altro, oppure forme di baratto per cui sempre sulla circolazione se rottami la macchina ti danno un sussidio per l'abbonamento dei trasporti pubblici. Trasporti pubblici chiaramente su cui non investono, quindi è soltanto per peggiorare le condizioni di vita delle persone. Dentro a tutti questi, diciamo, questa forma di condizionalità che tra l'altro è stata utilizzata, e questo è un altro aspetto che ci ha unito sia a livello teorico che pratico dentro l'assemblea, di riconoscere che tutto quello che succede sul fronte interno è legato a quello che succede sul fronte esterno, non soltanto anche, diciamo, a livello di sperimentazione. Per esempio, questi meccanismi di condizionalità che adesso l'Europa impone agli Stati membri, i nostri governi impongono ai propri cittadini, sono stati utilizzati diciamo in tempi precedenti contro tutti i paesi cosiddetti in via di sviluppo, per cui c'era il Fondo Monetario Internazionale che andava a dire e continua ad andare a dire a questi stati, li finanzia nella misura in cui fanno una serie di riforme e quindi si allineano a tutta una serie di comportamenti che dovrebbero rendere quegli stati più democratici, in realtà li rendono semplicemente più compatibili con gli stati guida del sistema capitalista. Quindi dentro a abbiamo attraversato quindi la lotta contro i dispositivi digitali e contro la digitalizzazione, diciamo, forme di lotta contro il dispositivo emergenziale in sé, che è quello, è la cornice, diciamo, che rende possibile tutte queste differenziazioni, sospensioni delle facoltà, dei diritti, anche se non siamo così fan del discorso dei diritti, ma anche forme non soltanto persuasive di regime di disciplinamento, ma anche forme apertamente repressive. In questi ultimi mesi, infatti, abbiamo partecipato anche alla lotta che ha aperto lo sciopero della fame del compagno Cospito, che adesso ha interrotto, e su cui, diciamo, che ha messo in luce come adesso che si è passati dall'emergenza pandemica all'emergenza della guerra, gli strumenti fortemente repressivi, diciamo apertamente repressivi, come il carcere, il 41 bis, sistemi coercitivi, siano altrettanto fondamentali come quelli che più sottili che hanno utilizzato fino adesso. E quindi l'altro punto fermo è che per impostare una lotta da qua avanti bisogna diciamo che ciò che ci ha insegnato il periodo della pandemia, perché il Green Pass è stato un strumento di differenziazione dei cittadini tra cittadini di serie A, cittadini di serie B, quelli che possono fare questo, quelli che possono fare quest'altro, cioè tutti gli strumenti che si fondano sulla logica differenziale sono chiaramente destinati ad estendere i propri effetti oppressivi, come un 41 bis che viene dalla legge Gozzini in poi, quindi tutti i meccanismi anche di differenziazione premiale che utilizzano. Alla fine, lascio diciamo, spazio al dibattito in cui ognuna di questi aspetti potrà essere sviscerato meglio, ciò che alla fine però ciò che abbiamo voluto sottolineare alla fine è che da qua in avanti, nell'impostazione delle lotte, ciò che dobbiamo fare è smettere di pensare con la testa del nemico, stare molto attenti a come impostiamo le lotte, non soltanto agli obiettivi che decidiamo, che individuiamo e che decidiamo di praticare, ma anche a come li pratichiamo. In che senso questo? Che innanzitutto la cornice legalitaria di qualsiasi, diciamo, un discorso che stia dentro alla cultura della legalità non può portare buoni frutti mai. Una delle pratiche che abbiamo assunto noi, per esempio, è che ogni volta che abbiamo chiamato delle piazze o degli eventi comunque pubblici non abbiamo mai chiesto l'autorizzazione, perché diciamo, dobbiamo proprio far saltare il tavolo della contrattazione. Quindi come pratica non c'è un antagonismo credibile se comunque prima ci si mette d'accordo e ci si fa regolamentare anche lo spazio della presa di dissenso per le strade. Un'altra cosa su cui, cioè, diciamo, un altro aspetto ancora più a monte chiaramente è il rifiuto di ogni partecipazione attiva a questo sistema, perché se è un sistema che si fonda su questa stimolazione del consenso o estorsione, o comunque ha bisogno di moltiplicare dei modelli di partecipazione degli oppressi alla stessa loro oppressione, quello che, diciamo, ogni lotta che stia, faccio un esempio, diciamo, del assistenzialista in termini di terzo settore, per cui prendi dei soldi, dei finanziamenti per impostare delle lotte che chiaramente poi verranno irreggimentate, non si possono porre in essere. L'altra questione è stata anche, diciamo, queste un po' più sottili, più difficili da gestire, sono che dovremmo forse rifiutare anche la logica dell'indennizzo, cioè bisogna stare attenti, anche perché in questo momento bisogna stare attenti a quello che si chiede allo Stato, perché ha dei meccanismi di sussunzione delle lotte, quindi di assunzione di quelle parole d'ordine, di rimasticamento e di neutralizzazione di quell'istanza, che sono molto potenti. Quindi, ad esempio, per quanto lo slogan che a un certo punto nei mesi di pandemia c'è stato "tu ci chiudi, tu ci paghi" fosse prodotto da comunque un'esplosione di rabbia e nelle strade, era uno slogan un po' debole, perché noi quello che rivendicavamo era che non volevamo essere chiusi, perché un indennizzo e un prezzo alla nostra alienazione, al nostro sfruttamento, non è quello che richiediamo, non sono 5 euro di più in tasca, o anche se fossero di più comunque sarebbero delle briciole. Questo vale anche nei confronti della richiesta di Stato sociale, nel senso che è vero che uno dei problemi principali, diciamo, dei morti durante la pandemia è stato la chiusura degli ospedali, il taglio allo Stato sociale, e quindi che ci siano delle rivendicazioni sul riottenere, diciamo, delle prestazioni sociali è abbastanza fisiologico, però bisogna stare attenti, perché proprio questa fase di controllo digitale e tecnologico che hanno imposto ci potrebbe, diciamo, ci dovrebbe far riflettere sul fatto che sarebbe anche possibile a un certo punto per loro reinvestire nella sanità, ma diciamo chiedendo in cambio forme di schedatura e di autocontrollo. Io non voglio la sanità gratuita se questo significa mettermi il chip sotto pelle. E visto che questi sono ad esempio gli investimenti a cui sta dando ampio spazio anche il PNRR, che parla di telemedicina, medicina predittiva, eccetera, e che quindi consistono in schedature digitali, ma anche forme di analisi molto invasive per scoprire e tutto quello che c'è dietro a queste tecnologie, insomma, stiamo attenti a quello che chiediamo, chiaramente ponendo come cornice, almeno secondo noi è importante porre come cornice di tutte le lotte, il rifiuto del controllo sociale in tutte le sue forme, il rifiuto del dispositivo emergenziale, che adesso in particolare è declinato nella forma massima dell'imperialismo, cioè la guerra, stando attenti, diciamo, a come impostiamo le lotte sui terreni che spero che oggi si riusciranno a individuare. Noi, dopo queste piccole introduzioni, avevamo pensato il dibattito, se riusciamo tutte e tutti, per dare spazio alla maggior parte delle persone, a mantenerci in 5 minuti, sarebbe carino, per dare la possibilità anche alle altre persone di parlare. Quindi qualcuna, prendi tu gli interventi, Laura? Sì. Quindi magari procediamo ad interventi e già presi o no? Stare all'interno di 5 minuti, dopodiché se si scuola un po' ci sono cose interessanti da dire, però l'importante è riuscire a dare la possibilità a tutte le persone di parlare, chi vuole parlare. Allora, c'era Piera? Sì, buongiorno a tutti e a tutti. Aggiungiamo alcune cose. Allora, là, chi ha attraversato in questi anni? Sì, va. Chi ha attraversato questi anni all'interno dell'Assemblea ha capito, a differenza forse di molti altri, che il periodo pandemico non sarebbe stato una spiacevole parentesi, dopodiché, diciamo, si sarebbe ripreso il cantan precedente, ma segnava una fase di passaggio, un momento di passaggio, come è anche stato detto più volte da chi detiene il potere, c'è un prima e un dopo, quindi non è una fase neutra, in qualche maniera accantonabile, ma proietta, diciamo, verso un mondo differente nel quale noi siamo. Quindi l'interesse dell'Assemblea non è tanto l'Assemblea contro il Green Pass di mantenere una struttura, perché si è creata una struttura, quanto far presente che i problemi posti permangono, quindi la necessità dello scontro, dell'interpretazione di quello che sta accadendo e del trovare soluzioni, proporre soluzioni, è aggravato dopo la pandemia, non c'è nessuna emergenza che è finita, anzi dobbiamo affrontare questo mondo che si pare dinanzi. Ad esempio qua c'è una proposta di partecipazione che hanno mandato alcuni compagni per un corteo a Pesaro il 1° maggio contro, diciamo, la costruzione di un biolaboratorio in quella città. La linea interpretativa secondo me può proseguire, nel senso che è vero che il movimento noi ci troviamo di fronte a un movimento di massa che affronta determinate questioni che antecedentemente erano seguite da delle minoranze. Io penso che siano decine di anni che affrontiamo questi temi, ma in questo momento c'è un allargamento notevole. È vero che questo allargamento è spurio, quindi ci sono estreme contraddizioni nel mondo che lo affronta, questo non può essere negato, ma allo stesso tempo, al di là delle letture che vengono date, che sono il prodotto anche della cultura dominante e diffusa, perché un conto è l'oggettività dello scontro sociale, un conto è come esso viene interpretato, c'è evidentemente una parte diversificazione, scusate, i temi ci sono e noi dobbiamo intervenire. Ad esempio, cosa ci può dire la costruzione di un biolaboratorio? Lì si intreccia sia la questione del biopotere, che in questi anni è stato quanto mai letterale, cioè proprio controllo nell'intimo della vita, no? Questo è la pandemia, diciamo, come si può definire la pandemia, sia come controllo diciamo sociale, tecnologico, sia proprio come controllo organico, biologico, sia il ruolo dell'apparato industriale militare, che è stato centrale, a nostro avviso, sia nella pandemia, cioè chi è che detiene le tecnologie, gli strumenti per gestire questi laboratori e la difesa dai virus o la produzione di virus, è sempre quell'apparato industriale militare che la fa da padrone, che ha assunto un ruolo sempre più rilevante nella gestione delle nostre vite, che magari non si presenta come facciata, però sta dietro. Per fare un esempio di una situazione in cui si intrecciano queste tematiche importanti, quindi il controllo della vita, l'importanza della tecnica, diciamo, soprattutto raffigurata come apparato industriale militare, che è determinante ad esempio in quello che è un fenomeno fondamentale di questi tempi, che è la guerra, sempre più centrale, un fenomeno sempre più centrale. Dico questo perché credo che tra gli aspetti da individuare per proseguire un percorso, forse il più fondamentale è la guerra, perché ne incarna tutti, come espressione, diciamo, sia dei rapporti sociali del mondo capitalista, ma sia anche di questo mondo del controllo e appunto del ruolo determinante di questo apparato industriale, tecnologico e militare, che è sempre più prevaricatore. Quindi sicuramente è un aspetto tra i più importanti sul quale è necessario, sarebbe utile a mio avviso focalizzare l'attenzione e sviluppare una progettualità. Io mi volevo così citare una frase che ha detto in questi giorni il presidente francese Macron, che è molto chiara. Dicevo che a Pesaro, ad esempio, ci sarà uno spezzone libertario. Ci sarà uno spezzone libertario, io almeno parteciperò, è un invito a partecipare. Facevo delle premesse perché chiaramente all'interno di quel corteo ci sono mondo variegato, in parte condivisibile, in parte no, però questo mi rilacciava alla questione dei movimenti spuri, in cui noi vorremmo portare delle indicazioni, diciamo, una proposta, che, e non cedere, passare la mano, diciamo, a qualcun altro e lasciare, perché è un po' anche il discorso della pandemia, cioè di quello di uno spazio conteso, per cui ci sono, e non bisogna negarlo questo, ci sono diverse determinazioni, non ne portiamo una, perché pensiamo che abbia senso e perché pensiamo che possa essere un contributo determinante non lasciare queste tematiche anche in altre mani, visto che abbiamo molto, molto da dire. Ecco, il presidente Macron, questo lo sapete tutti, in relazione allo sciopero, ai blocchi, a tutto quello che sta succedendo in Francia, ha preso la parola dicendo che, sentita, non lo leggo ma è una frase molto breve, sentita la rabbia dei francesi, ho sentito la rabbia dei francesi, ma la riforma delle pensioni è necessaria. Secondo me questa frase è proprio quanto di più significativo, cioè sui tempi nei quali viviamo, è sintetico, cioè la sostanza del potere rispetto a qualsiasi aspetto, dalla pandemia alla gestione della guerra, alla gestione del conflitto sociale, delle emergenze sociali, è che non c'è alcuno spazio di mediazione, punto. Cioè è necessario sia per l'ideologia del mondo neoliberista in cui viviamo, per cui la minoranza detiene il controllo assoluto e le maggioranze hanno degli spazi, diciamo, in cui possono muoversi, ma su alcune questioni non c'è nessuna possibilità di interloquire, ad esempio noi non abbiamo nessuna possibilità di dire la nostra rispetto a un conflitto che sta avvenendo in Europa, come non abbiamo nessuna possibilità di dire la nostra, o pochissima, rispetto alla pandemia. E anche del fatto che il sistema stesso è alle strette e non ha esso stesso margini di manovra, ad esempio non ha possibilità di redistribuire, produrre pace sociale attraverso la ridistribuzione del reddito, perché ci sono grossi problemi negli equilibri internazionali, quindi è una situazione abbastanza determinata dagli eventi. Ecco, l'aspetto che volevo dire, questa frase, appunto l'ho citata perché secondo me è significativa della fase in cui siamo. Non c'è spazio di mediazione, allo stesso tempo viviamo situazioni estremamente drammatiche per cui è necessario organizzarsi in maniera conflittuale per riuscire a strappare qualcosa. Lo stesso è stato sulla pandemia, cioè era completamente chiusa qualsiasi possibilità, in senso autoritario è stata imposta una strada, per fortuna diciamo c'è stato chi si è ribellato a questo e in qualche maniera è riuscito a deviare leggermente la situazione rispetto a quello che erano i destini, ma questi destini sono continui, cioè non è che è finita quella pandemia. Adesso la situazione in questo momento, secondo me, è più importante, che c'è una guerra all'interno dell'Europa con migliaia di morti e c'è l'assoluto interesse di questo sistema di portarla avanti con gravi rischi di escalation a livello mondiale, perché lo stesso, non per citare Papa Francesco, però penso che sia un più minuto. Rilevante dei politici italiani, insomma, che vivono un po' la giornata, quando dice che c'è una guerra mondiale a pezzetti, il significato è abbastanza chiaro, il rischio di trovarsi in questa situazione di escalation è estremamente forte, quindi a mio avviso questo è l'elemento che più caratterizza lo scontro in atto e la nostra necessità di individuare degli obiettivi sui quali porsi, cioè cercare di dire qualcosa su questo conflitto per porre, diciamo, dei termini, perché il rischio, ripeto, è la sopravvivenza dell'umanità, se non comunque già attualmente la tragedia che colpisce migliaia di persone. Io penso che sia la forma in cui, diciamo, il dominio in questo momento si manifesta. Ecco, questo era per individuare degli aspetti sui quali poter proseguire. Un altro aspetto che vorrei segnalare, ma brevemente, è quello della repressione. Qualcuno di noi ha seguito la campagna per Alfredo Cospito e al di là dei fatti specifici che riguardano il compagno, quello che con una lettura più ampia possiamo vedere è la chiusura a qualsiasi possibilità di conflitto e a qualsiasi livello si manifesti. Se voi avete seguito questi anni quelle trasformazioni in questo campo, vedete che in qualsiasi maniera ci si opponga allo Stato, dalle forme più blande alle forme più radicali e più violente, c'è stato un attacco, una chiusura sistematica. Pensiamo, non so, alla questione del decreto anti-rave che è stato emanato quest'anno, per cui di fatto si pone un divieto alla riunione in luogo pubblico. Adesso si vogliono intervenire sulla questione dei giovani che fanno questi blocchi, diciamo, di natura ecologista, con delle pene spropositate. Quindi da circa 20 anni che stanno chiudendo qualsiasi spazio di agibilità. Questo per riallacciarmi a quello di prima, voglio dire, ci troviamo in una situazione in cui il potere si è organizzato per attaccare qualsiasi forma di conflitto esca dal recintino, diciamo, del consentito. Un aspetto che volevo segnalare perché non è possibile eludere, ma semplicemente spinge in avanti le possibilità di conflitto. Ecco, io finisco brevemente perché mi ero segnato degli appunti, ma sennò vado troppo avanti. L'Assemblea, diciamo, l'anno scorso ha tentato per un paio di iniziative successive, diciamo, alla questione della pandemia. Una era tentare di dare campo a un percorso sul caro vita, che è ancora attuale, visto che poi progressivamente questa situazione si è involuta e è diventata sempre più grave. L'altra era stato un blocco che avevamo tentato di fare a una fabbrica elettronica che si trova qui sulla Tiburtina, dove c'è un grossissimo polo industriale e militare con Finmeccanica, Alenia e tutti i principali. E anche quella linea era stata poi, si era fermata. Credo che sia importante riprenderle perché in questo momento sono punti centrali. In particolare, per quanto riguarda l'Italia, possiamo assistere sia a un asservimento, diciamo, più o meno totale agli interessi imperialisti degli Stati Uniti, adesso, per cui quello che viene deciso da altre parti qui è legge, quindi l'Italia partecipa in qualche maniera come supinamente a, ubbidisce supinamente a quelli che sono gli ordini di intervento militare, sia un ruolo importante appunto di questo apparato industriale militare, che ad esempio è rappresentato dal Finmeccanica, che di fatto è una sorta di governo ombra, perché gli uomini di Finmeccanica o di ENI sono quelli che poi effettivamente decidono gli indirizzi politici dello Stato, e i legami, diciamo, a livello politico di Finmeccanica sono talmente evidenti, perché quindi a mio avviso una delle possibilità di sviluppare una lotta e di riprendere la lotta è proprio quella di avere una lettura sulla guerra, lettura che è difficile, perché, scusate se apro l'ultima parentesi, le stesse linee di faglia che ci sono avute sulla pandemia anche sulla guerra si possono ritrovare, neppure sulla guerra c'è una lettura univoca da parte del mondo antagonista di sinistra, a mio avviso, perché la presa dell'ideologia neoliberista all'interno della sinistra è molto forte, e così come per quanto riguarda la pandemia sono stati di fatto spinti gli orientamenti dell'OMS, quindi del potere sanitario internazionale, in altro modo per quanto riguarda la guerra la visione della NATO, quindi la lettura della NATO in qualche maniera viene riproposta, penso che sia abbastanza, viene riproposta sia di destra che di sinistra. La sinistra ovviamente è rappresentata in questo momento a livello istituzionale da una persona che è Schlein, che è estremamente legata agli interessi del patto atlantico, e quindi questo poi si ripercuote ovviamente finché non trova a un certo punto dei muri, ma si ripercuote in buona parte della sinistra, un orientamento che in qualche maniera favorisce o accetta quella lettura. Non credo che sia necessario, dal mio punto di vista, schierarsi per uno dei due contendenti, e perché una lettura dal punto di vista geopolitico, dal mio avviso, non è sufficiente. Dico questo perché da un punto di vista geopolitico, a mio avviso, il blocco della Russia e della Cina ha tantissime ragioni politiche da tenere in campo, perché ovviamente chiunque abbia letto dei giornali negli ultimi 10 anni ha presente che c'è stata un'operazione di accerchiamento e di attacco e di tentativo continuo di influire all'interno di queste nazioni. Quindi è chiaro che da quel punto, per me è chiaro, ma non, personalmente non ritengo sia necessario schierarsi dalla parte di uno dei due contendenti, ma tornare a fare presente che la guerra è sempre l'interesse di alcune minoranze giocate sulla pelle di tutti i popoli, ucraino, russo, italiano, chiunque poi subisce la propria dose di sventura, e mentre dall'altra parte parliamo di profitti, interessi, riproduzione del sistema capitalista, tutto quanto. Allora io credo che in questo momento l'aspetto centrale sia questo, cioè dare vita a un fronte, diciamo, internazionale che si opponga alla guerra, di unità tra i popoli contro gli stati e gli interessi capitalisti di entrambe, di tutte le parti, però a cominciare dalla nostra, perché chi sta in Italia ovviamente deve cominciare, come abbiamo detto più volte e scritto più volte, il nemico a casa nostra. Le responsabilità della guerra sono a casa nostra, in particolare nell'adesione, nell'invio di armi, nel porre gravi rischi tutti quanti nel momento in cui si partecipa in maniera più o meno nascosta, ma insomma abbastanza concreta, a fornire le armi per portare avanti un conflitto, per sostenere un conflitto. E prendendo anche quanto è scritto nell'opuscolo, ci dovrebbe far capire la permanenza di un fronte interno che sempre esiste nelle guerre, quindi a una guerra esterna un qualsiasi Stato contribuisce anche con una guerra interna, cioè vuol dire la limitazione della libertà, l'attacco alla dissidenza, l'entrata in un'economia di guerra, e quindi di fatto la giustificare qualsiasi misura di natura economica, di restrizione della ridistribuzione di reddito in nome di interessi superiori. Insomma, questa è la dimensione principale, a mio avviso, in cui siamo, e secondo me, anche detto così, adesso senza scusatemi se mi sono dilungato un po', senza magari entrare nel dettaglio, è anche secondo me la prospettiva da perseguire nei prossimi periodi. Grazie, scusate. Lello. Allora, io spiego me stesso per dire agli altri, no? Allora, il neoliberismo, noi usiamo spesso questa parola, ma cosa cavolo è sto neoliberismo? Non è altro che il capitalismo. tu lo puoi chiamare neoliberismo, ma se lo chiamassi ipercapitalismo diresti la verità. Perché iper? Perché prima non era capitalismo. Nel dopoguerra siamo vissuti in un regime di fatto misto, cioè c'era il capitalismo, ma parte, buona parte dei soldi che venivano raccolti con le tasse venivano investiti nel sociale. Questa era la situazione precedente al neoliberismo. Il neoliberismo è chiaro, crudele, spietato, ma molto chiaro. Se non c'è reddito, si taglia. Fine. Non è che loro lo fanno perché sono cattivi o pazzi, perché loro te lo giustificano. Dicono che in questo modo si sana la società, in questo modo si eliminano i rami secchi, si eliminano i parassiti e poco alla volta poi riprende a andare tutto e riprende la ricchezza. È chiaro, no? Allora, tutto quello che succede prima della pandemia e succederà è successo durante la pandemia e succederà dopo, va visto in questa ottica, indipendentemente dal fatto se loro provocano degli eventi, perché io non lo so e perdiamo tempo a discutere su questo, loro approfittano di ogni situazione per spingere avanti questo discorso, che è taglio progressivo delle spese sociali e instaurazione di un capitalismo di profitto. Cioè, se non rendi non ci devi essere. Non so se è chiaro questo punto, no? Loro approfittano costantemente per arrivare a questo. E c'è un motivo. Ecco perché il controllo sociale serve perché loro sanno che devono prendere in questi anni e nei prossimi costante misure antipopolari. Lo sanno benissimo e sanno che per garantire questo hanno bisogno di avere un controllo capillare sulla società. C'è un discorso semplice, lineare, no? Non c'è follia, c'è un piano a livello mondiale, non dimentichiamoci mai, a livello mondiale, perché se noi pensiamo che le contraddizioni fra i gruppi economici che vogliono farsi la guerra siano fondamentali rispetto alle affinità, forse commettiamo un errore. Perché il neoliberismo è in tutto il mondo. Non è che la Cina e la Russia non siano neoliberiste, eh? Forse qualche correzione la stanno facendo ultimamente, può darsi, però sono neoliberiste. I Chicago Boys sono andati anche lì e appena sono andati al potere hanno tagliato le pensioni a tutti i russi, hanno tagliato i servizi sociali, hanno fatto una serie di cose. Qualcosa ha rimesso adesso, bisogna dire la verità, però al di là di queste cose. Se noi dobbiamo avere chiaro questo progetto loro, chiaro per combatterlo, no? Io sarò brevissimo. La Francia ci ha dato una grande lezione, se vogliamo capirla, eh. In Francia sono state spinte le forme tradizionali di lotta e di protesta a livelli nei quali noi in Italia non arriveremmo mai. E cosa hanno ottenuto? Niente. Lezione. Bisogna trovare forme di protesta differenti che non siano quelle tradizionali, perché delle tradizionali se ne fottono. Non so se sono chiaro, no? Chi deve trovarle? Noi. E questo è il compito che noi abbiamo. Capire la situazione e capire che ripetere delle forme di protesta che a quel livello francese non arriveremo mai, e loro direbbero, come giustamente ha fatto notare Pierre, mi spiace tanto, ma questo lo devo fare. Allora, il nostro compito è questo. Ognuno deve tirare fuori la sua creatività, la sua fantasia, la sua inventiva, e deve cercare di arrivare a questo. È anche la lezione che in parte ci ha dato Alfredo. Cioè, con una forma di protesta, non di quelle tradizionali, li ha scombussolati. Indubbiamente li ha scombussolati. Dobbiamo cercare di uscire fuori dagli schemi mentali che noi ci siamo creati come sinistra, sbagliando, chiunque si crea uno schema mentale fisso sbaglia, e capire che siamo in una situazione nuova dove le forme di protesta tradizionali non ottengono risultati, e vedere di trovare nuove forme di protesta che non devo inventare io, non devo inventare lei, lui, dobbiamo farlo insieme, perché insieme possiamo uscire da questa situazione, e insieme, se no diventiamo schiavi. Ecco, è tutto. Giulio. Sì. Allora, io vorrei approfondire un aspetto che abbiamo trattato in una parte dell'opuscolo, che è quello relativo al potere invasivo delle tecnoscienze, che con tecnoscienze, che con la pandemia ha fatto un balzo in avanti notevole, in particolare relativamente all'applicazione delle biotecnologie sul corpo umano, ma anche su qualsiasi corpo vivente e sull'ambiente in generale. Si pensi semplicemente alla distorsione dei processi scientifici che è avvenuta durante la pandemia per l'approvazione dei vaccini con tecnologie sperimentali che non sono state sufficientemente testate e verificate. E quindi nel campo della salute, soprattutto nel campo della salute, queste biotecnologie stanno facendo dei passi enormi, diciamo, che non sarebbero stati possibili se non ci fosse stato l'emergenzialismo di quella situazione contingente. Questo anche nel campo dell'agroalimentare, le biotecnologie stanno cercando di sconvolgere i processi produttivi, innovandoli il più possibile, cercando di estrarre il più possibile valore da un calo di redditività che è, diciamo, consustanziale alle dinamiche del capitale. Il processo scientifico, diciamo, va sicuramente in crisi in queste dinamiche. C'è l'applicazione di un principio che è quello, diciamo, della tecnica cibernetica del capitale, per cui un sistema di controllo, di stimolo e di risposta e di adeguamento dei sistemi tecnologici che diventano sempre più pervasivi nel controllo dei processi vitali. C'è questa, diciamo, questa anche propaganda mediatica con cui vengono stravolti le valutazioni scientifiche sui processi biologici, biochimici, ecologici. Si pensi a tutta la questione climatica che piano piano sta cominciando ad emergere sempre di più con forza, come ci viene imposta come un'emergenza catastrofica, con una modalità di polarizzazione dell'opinione pubblica che con la pandemia anche è stata, diciamo, lampante, no? Questo creare due fazioni, chi è pro e chi è contro, chi è Novax e chi è Sivax, e questa, diciamo, tecnica sterilizza qualsiasi tipo di posizione critica, cioè la rende difficile porsi in una posizione invece di analisi più critica, un po' più profonda sulle dinamiche storiche e anche contingenti del capitale. Anche sulle questioni di genere, diciamo, c'è una questione molto delicata, per cui si rischia la strumentalizzazione delle questioni di genere. Ci sono sottesi degli interessi molto grossi di tipo finanziario e degli investimenti notevoli, insomma, dei capitali anche su questo campo qua. Anche la logica del dual use in questo senso è un altro aspetto molto rilevante, perché molte di queste tecnologie vengono impiegate sia in ambito militare o in ambito medico, oppure vengono applicate, diciamo, con la giustificazione mediatica di essere utili a curare la tal malattia rarissima per cui fino ad ora è stato impossibile intervenire, ma in realtà, diciamo, quel canale serve ad acquisire grosse masse di finanziamenti da reinvestire e per farci anche altro con queste tecnologie. Ora, un altro aspetto, diciamo, che anche sulla parte conclusiva dell'opuscolo che abbiamo messo insieme, in un processo collettivo di analisi che è andato avanti anche parecchi mesi, insomma, che ha visto, diciamo, intrecciarsi punti di vista anche, diciamo, non vicinissimi, ma insomma contigui, è quello, diciamo, del senso delle lotte che vogliamo portare avanti, delle modalità di pratiche più che di teoria. Diciamo, si assiste nel mondo dell'antagonismo a una tendenza anche qui al riduzionismo, come un po', diciamo, nelle scienze, anche nel mondo dei movimenti c'è una sorta di riduzionismo per cui c'è chi si occupa del clima, chi si occupa della guerra, chi si occupa delle questioni di genere, chi si occupa delle scienze, chi si... sì, ce la sto. Cioè, è il potere che crea questo, certamente, non succede per caso. Certamente. Ora, ecco, quindi è bene il più possibile cercare di avere una visione d'insieme dei processi che si legano uno con l'altro. Questo, insomma, un po' l'abbiamo anche accennato così nella presentazione di questo incontro, elencando una serie di questioni principali che però sono tutte quante interconnesse una con l'altra. E quindi, a nostro modo di vedere, sarebbe bene riuscire a tenere insieme tutto quanto il quadro. E ecco, sulle pratiche di lotta, espongo il mio punto di vista personale, ritengo che sia necessario portare in parallelo avanti sia il contrasto antagonista diretto alle forme del potere, che la diserzione dai meccanismi del potere con i quali, che è sia il pensiero del nemico che ci viene inculcato, ma sono anche, ecco, cioè questo pensiero del nemico poi alla fine in qualche modo ci condiziona anche a partecipare a questi meccanismi, a questi automatismi del capitale, inevitabilmente. Come ci approvvigioniamo di cibo, come trattiamo la nostra salute, da dove viene l'energia, come viene prodotta l'energia che utilizziamo, e tante altre questioni, insomma, ci dovrebbero interrogare sul nostro grado di dipendenza e di costrizione dalle dinamiche che il capitale e le istituzioni insieme tengono per stritolarci. Cioè, non ho capito bene questo, cioè tu dici che più siamo liberi dai servizi che offre il capitale, più possiamo lottare liberamente, questo, insomma. Esattamente. Sì, cioè, è una cosa importante, ho capito, scusa, non ho capito bene. Sì, beh, insomma, questo è quanto. Grazie. Ok, adesso ci sta, compagno, ci ha detto no. Tu? Venezia. No, lei. Sì. Faccio io. Io sono un compagno di Venezia e parlo a nome del gruppo antifascista contro ogni Green Pass. E siamo venuti a questa assemblea perché il 25 aprile sono venuti su dei compagni vostri a portare l'opuscolo alla manifestazione di Wuhan. E abbiamo letto l'opuscolo e lo trovavamo pertinente e anche centrato, per cui non vado a dire cose già dette, se non che siamo nati, come abbiamo deciso di chiamarci, gruppo antifascista contro ogni Green Pass, perché? È del tutto evidente che il Green Pass era la tessera del partito fascista, ma questa è banale, cioè è molto semplice. Ma soprattutto perché all'interno di questo movimento ovviamente c'erano delle spinte di destra che ci sono ancora tuttora per fare rientrare questo movimento all'interno di certi albi, che vanno comunque contrastate, perché non come uno... vanno contrastate. C'è quindi il problema di come rapportarsi a questo movimento che è stato, chiamiamolo per comodità, no vax, no green pass, questo movimento eterogeneo, perché comunque su talune questioni, controllo digitale, anche su certe forme della guerra, ci sono cose, ci si noi potremmo trovare l'acqua dove poter nuotare, cioè un po' di acqua c'è, quindi vediamo se, però dopodiché ci sono tutti dei limiti di classe, di incidenza delle lotte, perché bisogna iniziare a vedere se si riesce a praticare qualche obiettivo in modo tale da poter mettere il capitale in difficoltà. Noi questa cosa la stiamo, a Venezia c'è una realtà che i fascisti lì sul movimento No Green Pass non erano evidenti, ci sono le forme sovraniste, quindi i legaioli, quindi questa gente qua, che sono pericolosi, però riesci, fra virgolette, ad arginare in una qualche maniera. A Venezia ormai da 2 anni si sta costruendo e costituendo il contributo d'accesso. Venezia è la città patrimonio universale dell'UNESCO e quindi in questo consenso ci sono fondi dell'Unione Europea per salvaguardare Venezia. Il sindaco, che è uno sceriffo, ha deciso di istituire la Smart Control Room da 2 anni. Sono soldi che ormai stanno piovendo sistematicamente a pioggia a Venezia e stanno cercando di dotare dall'anno prossimo la struttura del contributo d'accesso, cioè far pagare i turisti quando arriveranno in città a prenotare con dei soldi. Ci saranno delle giornate con bollino rosso, bollino nero e bollino verde. Ovviamente il carnevale è bollino nero, quindi costerà caro, quindi quelli che vogliono andarci per un giorno solo non ci potranno andare, ma ci dovranno andare solamente quelli che andranno a stare 5-6 giorni negli alberghi, nelle cioè, perché è questa poi la cosa, perché se vuoi limitare il flusso turistico di una città, intanto devi definire un numero base sul quale entro, che ne so, 130.000 persone in più a Venezia non possono entrare. Questo numero ancora a tutt'oggi, dopo 2 anni di discussione, il comune ancora non lo ha tirato fuori, chissà perché. Non c'è il blocco alle licenze dei bed and breakfast e non c'è il blocco della costruzione degli hotel sul Canal Grande, per cui è evidente che col turismo non c'entra un cazzo. Ecco. Detto ciò, però, si sono già dotati di strumenti, appunto la Smart Control Room, funzioneranno con 700 telecamere nel centro storico a Venezia e altre 700 a Mestre. E qua mi si deve spiegare a Mestre che cazzo ce ne servono. Cioè, qualcuno mi deve spiegare perché in terraferma ci devono essere queste telecamere. Verranno implementate in quest'anno con altre 900 telecamere dal controllo biometrico e agganciando le auto, io passo sotto e ci sarà l'agganciamento alla cella telefonica e direttamente mi prenderanno i dati biometrici, per cui sarò. Questa roba qua è del tutto evidente che è preventiva rispetto, allora c'è il caro, perché poi bisogna anche dirsi, il caro vita, gli stipendi bloccati, la guerra che impone tutta questa serie di, tra virgolette, coincidenze. Ieri sera vedevo un attimo Bernabé alla 7, Bernabé diceva perché bisogna fare in modo, perché adesso il governo farà il discorso sul cuneo fiscale che aumenterà di 18 euro al mese le buste paga, perché se le aumentiamo troppo si crea ancora di più inflazione, quindi dobbiamo assolutamente, cioè stanno mettendo in giro un pensiero rovescio. È un pensiero capovolto, è una roba allucinante sta cosa che stanno facendo. Per cui noi stiamo facendo questa cosa qua a Venezia, la stiamo facendo con queste persone, abbiamo dato vita a una cosa mista con persone che venivano su dal discorso Novax, per il momento ci stiamo riuscendo. Sono d'accordo anch'io con il discorso di Pesaro, perché questa roba qui, noi pensavamo di andare a vedere, comunque una macchina la facciamo, proviamo ad andare a vedere cosa succede, ma è, io adesso la pongo là in maniera, fra virgolette, non, magari troppo ambiziosa e troppo alta, ma su questo discorso dei biolaboratori, onde evitare che vengano fatte le manifestazioni gioiose che non ottengono un cazzo, invece possiamo fare delle iniziative come si fu per il nucleare davanti a, cioè questo è, però mi rendo conto, è ambiziosissimo al momento, anche perché manca una rete di compagni nazionale ancora al momento, cioè io mi rendo conto di questo, ma che proviamo a dare, se sto movimento Novax ha dei limiti, proviamo a evidenziargli le strade, proviamo a fargli vedere delle strade, e dopo la fantasia, però... No, una premessa, nel senso che stiamo tenendo fra i 5 e gli 8 minuti degli interventi, quindi in modo tale che siamo molti, quasi 70 persone, così riusciamo a parlare chi vuole parlare. No, lo dicevo a tutte. Prego. Tocca a me parlare, ok? Sì, tu avevi, ma chi vuole può iniziare. La situazione lei, guarda che No, avrei qualcosa da dire, sì. Mi presento, mi chiamo Patrick, quartiere San Lorenzo e dall'accento senti che sono nato negli Stati Uniti. E sono venuto perché curioso di ho sentito parlare del soppuscolo, vorrei una copia. Ho notato il discorso che ha fatto il compagno qui alla mia destra sulla svolta avvenuta negli ultimi 30 anni, da una svolta che fa sì che non veniamo ascoltati più, le forme tradizionali di manifestazioni non fanno più presa e il potere man mano rimangia tutto lo stato sociale che con molto sforzo dagli anni 50 agli anni 70 si è stato costruito. Però quello che il compagno non ha detto è che c'era un motivo per tutto questo. Il motivo si chiama Partito Comunista Italiano. La borghesia aveva paura del Partito Comunista Italiano e ha ceduto negli anni 50 agli anni 70 tutte le concessioni sociali per accontentare la folla e perché non seguisse il Partito Comunista. Quando il Partito Comunista è stato eliminato non c'era più paura di un governo che espropriasse i terreni o i beni o industrie o nazionalizzate, niente paura, e quindi il capitale se ne fotte di quello che noi siamo. Il compagno che ha descritto come noi veniamo trattati come animaletti in gabbia, facendo sperimentazioni biometriche e cibernetiche su di noi, è perfetto. Il capitale è lo stico da americano, è crudele, selvaggio e omicida. A Taranto il capitale, per far funzionare l'ILVA, accetta di uccidere dei bambini tarantini di tumore, centinaia ogni anno, tranquillamente. Nei cantieri, pur di rientrare nei costi, accetta di uccidere lavoratori per lo più dell'Europa dell'Est, ma comunque anche italiani, con mancanza di sistemi di sicurezza, perché costa. È un patronato che uccide. La guerra in Ucraina è palese, la NATO, dopo aver invaso indirettamente e nascostamente l'Ucraina nel 2014 attraverso i milizi addestrati nelle caserme NATO in Polonia, hanno preso il potere e quindi hanno iniziato una guerra contro la Russia che poi è sfociato in quello attuale. Ma una guerra in cui muoiono ucraini e russi, ma non chi ha causato la guerra, ovvero sia noi. Il sistema HIMARS che viene adoperato sono questi missili micidiali che stanno facendo la differenza e stanno facendo avanzare le truppe ucraine, vengono guidati da ucraini, poveri cristiani che li portano a un certo punto che i comandanti da Washington o da Sigonella indica, poi da Sigonella i miei compatrioti americani usano i droni per spiare dove sono i russi, mandano i segnali a Washington che fanno i calcoli, mandano il segnale al povero Cristo ucraino per terra che spinge il tasto, parte il missile, un aereo statunitense sopra controlla e rettifica la guida se non va bene perché colpisca i russi, e se sbaglia e se i russi sparano in ritorno muoiono gli ucraini. Non muore nessuno a Sigonella, troppo lontano, no. Non muore nessuno a Washington. Quindi è una guerra perfetta, la NATO può fare guerra e muoiono solo ucraini. Allora, questo è il capitale. Noi siamo oggetti che è pronto a sacrificare. È per questo che dico da americano che bisogna ricostruire il Partito Comunista come una volta. E questo vuol dire che assemblee come questo non saranno tollerate. Noi siamo tollerati perché non contiamo un cazzo. Se fossimo sovversivi avremmo la Digos qui. Oh, proprio, no, proprio, ok, la Digos c'è già qui per controllare che... Mi correggo, ho detto all'inizio, Patrick, mi chiamo Alfonso, ecco, così, Digos, mi chiamo Alfonso. No, Alfonso, Digos, mi chiamo Alfonso, non voglio che mi schedino, no? Dico sul serio, se non c'è una minaccia al capitale di nazionalizzare un'azienda, fa quello che ha descritto il compagno qui, ci usa come merce e è pronta a sacrificarci per al nome del profitto. Quindi questo vuol dire organizzarsi per fare una forza pronta a rovesciare il potere e questo vuol dire invitare Digos, sentite, a intervenire pesantemente, a arrestarci. Il capitale non scherza, basta vedere quello che fa nei paesi in cui siamo andati a portare la democrazia. Io non vorrei essere in Afghan sotto sotto il controllo americano, per cui non mi tagli qui, ho detto il mio pensiero, o siamo militanti o passiamo il tempo a lamentarci, come diceva il signore prima, in Francia hanno fatto avrebbero dovuto fare sciopero generale in Francia. Se avessero fatto sciopero generale fermando tutto e facendo saltare la borsa, sì che ci sarebbe stato un cambiamento, però per fare sciopero generale bisognerebbe che i vertici dei sindacati lo dichiarino, i vertici dei sindacati sanno che se dichiarassero cose del genere salterebbero l'indomani. Quindi è una lotta dura, altrimenti siamo qui a lamentarci e basta. Stop. C'è il compagno con la portoghiera della Roma. Perdona, posso fermare? Dico perché, E così si fa. Più di 15 anni io sono stato in conflitto legale con la mia azienda e vi assicuro che non ci sta adesso Silvia, che è fuori. No, ma è dentro. Sto fuori sicuramente. Allora, diciamo che io diciamo particolarmente stimolato, no, questa iniziativa. Ho stimolato questa iniziativa perché effettivamente, no, in questi ultimi due, ormai quasi tre anni, ho percepito che intorno a me c'era sicuramente una forma di fiume silente, no? Di fiume ancora non completamente rassegnato, no? Da un punto di vista proprio politico ma anche personale, no? A questo esistente, è un fiume assolutamente invisibile da questo punto di vista, a tratti un ruscello, no? In qualche momento, no? Magari con un po' più di acqua. Chiaramente è un fiume che, diciamo, da questo punto di vista è fortemente attenzionato, perché indubbiamente è un fiume che non accetta il compromesso ultimo di tutta questa storia, cioè l'assoluta dipendenza, no? L'assoluta dipendenza da un sistema che, tanto per capirci, non è un sistema che l'altro ieri, tre anni fa, andava bene. Questo è quello che io penso, ovviamente. È chiaro che lontana da me qualunque idea di tornare a quello che c'era prima. Non mi piaceva prima, voglio dire, per me che mi definisco assolutamente comunista, no? non può essere ambizione, no? Di un movimento di lotta assolutamente il ritorno a una situazione precedente, ma anche la rivendicazione di una concessione, okay, dello Stato. Perché almeno in questo mondo lo Stato è assolutamente, no? Complice del capitalismo, che non esiste, non può essere complice o anche addirittura sovrapposto, non può essere in alcun caso un capitalismo buono, non c'è, può essere nessuna riforma che rende il capitalismo buono, perché l'essenza del capitalismo è assolutamente lo sfruttamento, e se l'assenza è lo sfruttamento, ovviamente non può essere buono. Non è che ci può stare una pillola nel culo che dice, ops, allora vabbè, tranquillo, dai, però se accetti questa cosa qua, allora poi alla fine ti va liscio, dai, tranquillo, che vuoi che sia. Tutto si fonda su questo che vuoi che sia, sulla apparente semplicità e comodità di questa rassegnazione, di questa proprio consegna delle armi, in senso ovviamente figurato. E d'altronde, purtroppo non ho visto una reazione di massa, no? Quella che è effettivamente l'impostazione del controllo e del disciplinamento, perché poi il centro non è tanto il controllo. Il controllo permette, il monitoraggio permette un forte disciplinamento di qualunque azione individuale o collettiva che possa anche soltanto mettere in discussione questo sistema. In realtà anche non volerne far parte, no? È assolutamente quasi impossibile in questo momento. Cioè, grazie alla pandemia, direi grazie alla pandemia, perché non ci sono informazioni riguardo a questa casualità di questa pandemia abbastanza affidabili, no? Chiaramente grazie a questa pandemia si è impostato un disciplinamento, un orientamento degli spostamenti territoriali. Ecco qui che poi si rappresenta oggi attraverso le varie zone verdi, oppure i criteri di accesso. In fondo è come se non servisse più neanche un provvedimento poliziesco per un DASPO, no? Effettivamente, che esiste da svariato tempo, voglio dire, non è che è uscito ora, effettivamente era diventato quasi di uso comune o anche molto familiare a tutti noi. Fino a qualche anno fa manco sapevamo esistesse, pensavamo fosse solo per i cattivi tifosi dello stadio. Assolutamente non è così. Così come l'orientamento dei consumi, caro Vita, non è solo un problema di caro Vita, qua è un problema di orientamento dei consumi, è un problema che giorno per giorno, addirittura in modo personalizzato, si stabilisce cosa, come, quando e perché, qual è che uso io devo fare di quello che è la mia volontà, che ne so, di mangiare o anche di uscire o anche di dormire, voglio dire, o di fare qualunque cosa non necessariamente politica, ok? Così come si è sperimentato la disposizione collettiva a fare dell'azione. Ora, voglio dire, non è che adesso non lo sappiamo, no? Che a scuola ti insegnano a mettere il bigliettino nella cassetta, oppure a dire chi è che si comporta male, o eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la gestione pandemica è proprio la più grande prova generale di questo, è andata proprio liscia, perché parliamoci chiaro, ha spaccato all'interno della stessa classe, sempre io sono comunista, tra lavoratori ci si è fatti la guerra, santa la Madonna, non c'è stata una reazione solidale, no, per esempio per tutti gli esclusi da... ora è chiaro che quindi il ragionamento che ci interessa qui è... capire che niente potrà più essere a prescindere da questo, dalla consapevolezza che nelle varie diversità di questo movimento, tra virgolette, no Green Pass, è immediata per tutti, mentre si fa una fatica aberrante fuori da questa cosa, fuori da chi ha realizzato quello che stava succedendo, quelle politiche, diciamo, di orientamento o di condizionamento e anche di come dire, deterrenza, no, della massa, così come del corpo militante, l'esempio di Cospito, è esattamente questo, non esiste proprio, non esiste proprio, il concetto è questo, la deterrenza verso qualunque azione e il chiaro messaggio per tutti che dice se tu vuoi contestare l'essenza di tutto questo, verrai represso, verrai escluso dalla società, eccetera, annientato. Ok, hai tutto il tempo che vuoi per decidere, fai adeguati, eccetera, eccetera. Ora è chiaro che è un po' doveroso da parte di tutti noi capire che cosa fare. Che cosa fare, ahimè, condivido fuori dal conosciuto, perché chiaramente quello che è conosciuto, a parte ovviamente anche l'oscuramento mediatico di tutto ciò che accade, questo no, è tipico, no, è proprio alla grande, proprio in Francia praticamente non sta succedendo niente sostanzialmente, come se non ci fosse nulla. Ora, da una parte dobbiamo capire cosa fare noi e da una parte dobbiamo anche chiarire definitivamente il fatto che chi questa cosa, chi non capisce questo, inevitabilmente in questo momento, consapevole o inconsapevole che sia, è complice. Si schiera con me. È complice perché effettivamente non c'è lucidità e se non c'è lucidità, e allora non si può affrontare l'esistente, non si può contestare, non si può stravolgere, non ci si può sacrificare. Grande stima per tutti quelli che all'interno di questo movimento hanno perso il posto di lavoro perché sono puri. Perché non c'è stato, non hanno vinto, non sono passati su questo. È quello che loro non si possono permettere. Non si possono permettere lo scontro senza compromesso. Forse è il caso che iniziamo a scontrarci senza compromesso. E io penso che tutti quelli che hanno partecipato a questo movimento possono capirlo immediatamente, questo discorso. Quindi è quello che ci accomuna a tutti. La chiarezza di quello che è stato è... e sarà. Ora, sulla parte, la possibilità a livello istituzionale, ovviamente, e mi riferisco sia al ruolo che può essere storico del PC, ma anche del movimento antagonista stesso attualmente, voglio dire, in una parte di questo movimento, da cui oltre a essere esclusi, qualcuno non ci ha mai fatto parte, o ha già da tempo definito che non poteva essere, ok? Arriva un continuo tentativo di, diciamo, annacquamento del contenuto di compromesso, sinceramente io non penso che ci sia nulla da spartire, non c'era, non c'è, non ci sarà, secondo me. Gli argomenti sono tantissimi, mi limito, il tempo è breve. E quindi do per scontato tutto quello che più o meno è stato detto nelle introduzioni, cioè ovvero che ci troviamo di fronte ad un salto che non è semplicemente un passaggio locale riguardando soltanto l'aspetto medico-sanitario, ma di un sistema di riorganizzazione dei rapporti sociali anche qui in Occidente, ma che è, come diceva qualche compagno, rivolto a tutto il mondo. Più o meno, quindi adesso non entro in merito in tutte le argomentazioni di questo, volevo soltanto porre due riflessioni o elementi di riflessione e di confronto. Uno, tentare di capire perché c'è stato tutto questo, perché c'è stato questo passaggio, se è stato semplicemente la responsabilità di un gruppo, diciamo così, di pianificatori internazionali delle necessità del capitale, o se invece questa pianificazione, prendo riferimento l'Agenda 2030, Davos e tutto il resto. O se invece ci troviamo di fronte ad una necessità che deriva dal fatto che ormai il capitalismo a livello più internazionale non può funzionare più come prima. Per poter sopravvivere, per poter valorizzarsi, deve fare una grande ristrutturazione tecnica della tecnologia per tentare di recuperare il calo della redditività del capitale. Ma questo non è soltanto un aspetto prettamente economico, deve anche riorganizzarsi anche al suo interno per poter operare questo. Per questo non concede più spazi di mediazioni e si è avviato questo processo di ristrutturazione. I compagni dicevano giustamente, guardate che quello che abbiamo capito noi è che qui non si tratta semplicemente, non si tratta semplicemente, diciamo così, di dare più spazio al controllo, ai meccanismi di disciplinamento sanitario. Qui si tratta proprio di cambiare i parametri e i rapporti tra le classi in Occidente, ma anche nel resto del mondo. Dopodiché questo, se da una parte ci fa capire che siamo oltre anche la fase neoliberista, dove le devastazioni, diciamo così, nel terzo mondo, sotto forma di cooperazione ha funzionato per rapinare ancora più profondamente i paesi del terzo mondo, e qui all'interno, distruggendo i servizi sociali, ma dando una speranza del tipo: se tu sei qualcuno che si dà da fare, puoi fare la tua scalata sociale. Adesso siamo al punto che tutto questo è negato totalmente, totalmente. Dopodiché, se questo è una riflettere su questo, secondo me è importante anche per capire quali sono le prospettive di chi invece si pone, ha capito questo e si pone in termini antagonistici a tutti gli aspetti della ristrutturazione. Perché questo ci fa capire, come diceva qualcuno, che in realtà i margini, perché anche la forma di controllo sociale che ha sostituito il patto sociale, quello che una volta c'era, no? Tra sindacati, lavoratori e delle concessioni che volevano fare, purtroppo non possono portarlo più in fondo. E quindi e tutto quello che sta accadendo nel mondo ci sta dimostrando che, nonostante la nostra esperienza di mobilitazione povera in Italia, si è confrontata con la Francia, si è confrontata anche in quello che sta altri paesi, c'è lo spazio perché si riapra una contraddizione importante con gli aspetti attuali del sistema, ma ancora di più per metterlo in discussione, per porre il problema. Qui non si tratta semplicemente di cambiare questo o quell'aspetto dell'oppressione, si tratta di mettere in discussione il sistema capitalistico, che significa, attraverso l'esperienza e le lotte, cominciare a porre oggettivamente il problema anche alle lotte che si svolgono su terreni particolari, che è questa generalità che deve essere messa in discussione. Ora è chiaro, noi partendo dalla situazione italiana in particolar modo, ci poniamo il problema di come continuare, come lavorare questo lavoro di contrasto che è iniziato sulla questione della pandemia. Però io credo che noi dobbiamo avere consapevolezza che, fermo restando che noi continueremo ad operare sia per la comprensione di questa contraddizione, sia nelle mobilitazioni specifiche che possiamo fare come gruppo, come piccola minoranza di fronte a quello che sta accadendo, io credo che l'attenzione che noi abbiamo avuto in precedenza, quando ci siamo portati nelle piazze che contestavano il Green Pass, dobbiamo avere la consapevolezza che il terreno dello scontro è così alto che noi possiamo contare su questo. C'era un noto libertario italiano che diceva: la rivoluzione non la faranno i rivoluzionari. Questo non voleva dire che lui... La rivoluzione non la faranno i rivoluzionari. con questo non intendeva ovviamente dire che non ci si doveva battere come antagonisti, ma che la prospettiva che si apre partirà da quello che noi neanche adesso ci immaginiamo e che nemmeno, diciamo così, noi ci immaginavamo prima del movimento contro il No Green Pass, perché pur essendo una lotta che ha coinvolto minoranze, però nessuno ci sarebbe mai aspettato che su questo terreno di frattura si avesse non solo una mobilitazione, ma anche una comprensione, seppur parziale, che il progetto Covid era qualcosa che dipendeva dagli interessi economici internazionali e tutto il resto, al di là di tutte le illusioni e di tutte le cose. L'ultimo minuto sulla questione della guerra, che sicuramente, come dicevano i compagni, è un terreno principale adesso di mobilitazione. E io inviterei i compagni a riflettere, perché il problema di come si sta arrivando o come sta continuando la guerra e la probabile escalation che c'è, a parte le motivazioni su cui credo la maggior parte di noi è d'accordo, che la guerra la sta facendo la NATO contro la Russia attraverso l'Ucraina, e che invece, diciamo così, c'è un terreno di coinvolgimento e compattamento nazionale che si sta operando in una maniera molto subola, diffusa, e che sta facendo schieramento, e cioè che sia la crisi internazionale, sia la conflittualità con Cina e Russia, sia, diciamo così, le prospettive di riscatto italiano, il piano Mattei, ma che però è una continuazione di una politica che c'è prima, pongono il problema di dire: la causa dei vostri mali sono gli altri, è la concorrenza mercantile cinese, è l'arroganza e l'autoritarismo di Putin, mentre invece voi avrete una risposta, una possibilità di risposta, solo se vi compattate, anche se non vi diamo un cazzo, con la prospettiva che noi cresciamo e la nostra aggressività imperialista vi darà qualcosa. Questo è un terreno su cui riflettere, al di là della questione, se vogliamo definire i contenuti di questa guerra e la lotta contro tutti gli stati, sì, è vero, però il punto principale, poi sono cose da approfondire ovviamente, è questo, e noi ce lo troviamo di fronte, e ce lo trovano di fronte anche i lavoratori francesi, la cui radicalità, diciamo così, ha messo in crisi il progetto di riorganizzazione attuale, ma a cui si sta lanciando una sirena, nonostante le difficoltà di comporre e di dare qualcosa ai lavoratori che mobilitano, che è quella che poi viene rappresentata dai dirigenti politici massimi di queste organizzazioni, Mélenchon da una parte e l'altra e via dicendo. E cioè che queste mobilitazioni vanno portate fino in fondo, perché ci dobbiamo difendere, ma dovete aderire alla partecipazione alla guerra in Francia. Questo è il leitmotiv di Mélenchon e di questo, diciamo così. Quindi noi non diamo scontato nessuna delle cose. Una, che comunque, nonostante le nostre piccole e deboli forze, ci sono tutte le condizioni per cui esplodono i settori sociali. L'altra, che su questo terreno della guerra noi affronteremo e dovremo affrontare gli stessi problemi che abbiamo incontrato col Covid, nel senso che non si rinuncerà comunque al compattamento sociale, a questo tipo di illusione. Questa è una cosa importantissima, secondo me, che dovremo fare, e che ci troveremo anche incontro nelle discussioni, nella partecipazione e mobilitazioni che intendiamo fare, già ci sono. Anche io preferirei non essere registrato. Sicuro? Va bene. Volevo ringraziare i compagni e i compagni dell'assemblea. Attendo dal singolo arrivare al cantino. Chiara, Allora, io vorrei portare più che altro una riflessione, sconclusionata, perché non mi sono data alcuna risposta alle domande che poi magari farò in fondo, sull'esperienza degli studenti contro il Green Pass, che è un'esperienza personale politica che ho fatto io da sola all'interno, prima di entrare poi in Assemblea Romana. E perché è stato molto interessante, in quanto chi è mio coetaneo o coetanea, diciamo che ha visto il primo movimento spontaneo e reale in questo movimento di studenti contro il Green Pass, che si sono formati a livello nazionale nel momento in cui il Green Pass è entrato a livello universitario. Movimento eterogeneo anche quello romano, e all'inizio molto organizzato in maniera verticistica. Infatti quello che è stato anche interessante vedere, quando ho trovato lì delle persone più che altro alleate, possiamo dire, è stato quello di porre come primo problema l'orizzontalità dell'assemblea, quindi il fatto che non potevano esserci dei capi cosiddetti a cui delegare il fare politico. E Non era da dare per scontato il fatto che è stata poi naturalizzata questa orizzontalità con vari ostacoli, però non era scontato, ed è stato importante perché tante persone degli studenti contro il Green Pass non erano politicizzate a nessun livello e avevano più che altro, diciamo, genitori, parenti pensanti, diciamo, mettiamola così. E quindi non era da dare per scontato, perché quelle persone non politicizzate tendevano a delegare e tendevano quindi a deresponsabilizzarsi e tendevano quindi a non essere poi partecipi e protagonisti neanche nelle piazze o nelle decisioni, banalmente. E quindi la chiamerò la formazione di persone che iniziano a prendersi la responsabilità anche politica di quello che succede in un movimento è stato importante, in quanto sono le persone che poi sono rimaste nel movimento o, se si sono allontanate, sono rimaste negli ambienti politici. E questo lo dico perché esiste ancora, diciamo, in cui io non sono attiva dentro, osservo dal fuori, esiste ancora un qualcosa che si chiama studenti contro il, cioè si chiama, non lo so, si chiama studenti contro il Green Pass. Pensavo che qualcuno sarebbe venuto oggi anche per correggermi, però così non è. E esistendo ancora all'interno dell'università un piccolo nucleo, diciamo, critico, che propone ancora delle letture critiche del mondo all'interno universitario, questo nucleo è interessante perché è un nucleo che sulla guerra è stato subito chiaro, contro la NATO, non come gli altri collettivi di sinistra cosiddetti, che sulla guerra, boh. E quindi, visto che in università, cioè le scuole e l'università sono praticamente i primi, chiamiamoli, enti in cui la militarizzazione è stata messa in atto, da praticamente il percorso di cittadinanza e costituzione che viene fatta prima dai professori, ora anche dagli sbirri, questo ai licei, dove ci sono le basi militari NATO, vengono, l'alternanza scuola-lavoro viene fatta nelle questure, nelle caserme, con i militari NATO, eccetera. Tutte queste cose le sappiamo. Adesso all'università è stata riproposta, perché è un'operazione che viene fatta ogni 2 anni, l'operazione Mare Aperto, in cui docenti e studenti saranno arruolati nelle navi NATO. A seconda poi dei percorsi di studi avranno determinati obiettivi o meno. Ovviamente è una cosa che ogni 2 anni viene fatta e che quest'anno prende un significato diverso, visto che abbiamo una guerra in corso, e era stato addirittura fatto anche durante la pandemia, però vabbè. Ora, quello che a me ha un po' sconvolto è il silenzio assordante sulla guerra di ora, ma anche sui rincari, però questo vabbè. Non c'è nessun collettivo esistente nell'università che si sta organizzando e preparando a delle opposizioni, a delle proteste, e sinceramente non so neanche se quelle sono le basi da cui far partire alcune proteste, Quindi mi sto chiedendo, noi come assemblea che si è organizzata e le assemblee tutte che a livello nazionale si sono organizzate, come possono rientrare, organizzare o rientrare nelle opposizioni che ci saranno in futuro. Sappiamo che tutto il movimento No Green Pass si è organizzato tramite chat Telegram, quindi un primo momento potrebbe essere quello di fare una ricerca banale sui social, quindi anche Telegram, di capire, intercettare quei gruppi che esistono, perché i movimenti contro il Green Pass hanno lasciato questo, piattaforme digitali dove si organizzava il dissenso e dove ora semplicemente viene incanalato il dissenso e il malcontento. E quindi io mi chiedo, esistono ancora chat Telegram? Possiamo scambiarci questi strumenti? Possiamo capire se si sta organizzando qualcosa in quelle piattaforme? Dopodiché, per l'appunto, cosa ha lasciato il movimento No Green Pass? Ha lasciato gruppi di persone disilluse nella democrazia, che probabilmente non voteranno più, che probabilmente vogliono fare un proprio, diciamo, una propria organizzazione per vivere meglio insieme, cioè mettiamola, cioè, non voglio, vabbè. Perché per l'appunto ciò che anche gli studenti contro il Green Pass di Roma nell'ultima fase finale andavano a richiedere, si chiedevano di fare, era quello di un'occupazione o avere un posto, uno spazio fisico che nessuno gli ha dato, e qua e si ritorna alla sinistra cosiddetta antagonista che ha lasciato questa crepa che ha creato la pandemia totalmente vuota, e poi mi viene di grazie se ci entrano i partitini e i destroidi e tutto quanto. Quindi quello che richiedeva era uno spazio fisico e qualcuno doveva darglielo. Nel senso, qualcuno poteva darglielo e poi vabbè. Potevano prenderselo, ci sono state richieste di prenderselo, poi hanno trovato vari posti da Rifondazione Comunista in poi. Vabbè. Quello che poi richiedevano era anche un contributo materiale, che anche da Assemblea Romana è stato dato banalmente durante alcune piazze. Contributi teorici ce ne sono stati. E l'effettiva differenza che c'è stata tra ad esempio Roma e altre assemblee di studenti contro il Green Pass è che nel nord, sentendo alcuni compagni e compagne, hanno raccontato che questi compagni comunisti avevano una base organizzativa, per cui sono entrati all'interno degli studenti contro il Green Pass e sono riusciti a essere più, diciamo, trascinatori che essere trascinati, come è successo a me, essendo che poi a Roma era di un'eterogeneità tale che era un po' difficile trovare una sintesi. E, vabbè, per concludere, alla fine quello che volevo lanciare era un po' questo, cioè la riflessione, fare un salto e riflettere anche per l'appunto che si fa, cioè cosa ci ha lasciato il movimento No Green Pass materialmente, piattaforme digitali, organizzazioni, gruppi. Abbiamo avuto Cultura Sospesa qua ad esempio, che tuttora esiste a quanto so, non lo so, insomma cosa ha lasciato di esistente, se sono basi da cui poter ripartire, da cui poter organizzare opposizione o da cui arriverà opposizione in cui immettersi, stavolta organizzati. E quindi se c'erano anche, insomma, altre riflessioni, esperienze da raccontare per contribuire al che facciamo ora. Scusate se intervengo di nuovo, che ho fatto l'introduzione, ma volevo dire due cose che come suggerimento, come idea per portare avanti delle lotte diverse, un altro specifico di lotta. Allora, quello che interessa a questo sistema di potere è trasformare l'organizzazione sociale attraverso la digitalizzazione, attraverso il controllo digitale, attraverso questo controllo serrato su tutti noi, con tutta una serie di meccanismi che sta mettendo in atto, di cui il Green Pass è stato solo l'inizio. Allora, questa organizzazione digitale è allo stesso tempo pervasiva, invasiva, si infila in ogni anfratto della nostra vita, però è anche molto fragile. Cioè è molto fragile dal punto di vista del funzionamento, dal punto di vista organizzativo. Quindi uno degli aspetti come lotta che noi dovremmo tenere presenti è questo di inceppare, di sabotare, di mettere gli zoccoli nell'ingranaggio di questo sistema. Dice come farlo. Allora, prima di tutto io sono incapace di gestire delle cose di questo tipo, appartengo a una generazione che non ha avuto questo tipo di esperienza e quindi faccio fatica. Però c'è chi è anche molto bravo, quindi il problema di inceppare questo meccanismo si pone e non credo neanche che sia così difficile per chi è capace di fare queste cose. Allo stesso tempo, questo tipo di meccanismo da inceppare si può inceppare anche diciamo in quelle che vengono considerate lotte normali, tradizionali, vale a dire se io faccio uno sciopero, tipo lo sciopero dei mezzi, allora, oppure lo sciopero all'INPS di qualche cosa, oppure, non lo so, al Comune di Roma lo sciopero rispetto a qualcosa. Allora, se io faccio lo sciopero tradizionale, io mi astengo dal lavoro, perdo i soldi, perché tolgono i soldi dalla busta paga, e di fatto non ottengo niente, se non far arrabbiare la cittadinanza che dice... Ah, quelli non posso andare lì, non posso andare là, non posso andare al lavoro, non posso. Se invece lo sciopero o comunque questo tipo di astensione riguardasse l'uso e i meccanismi digitali, voglio dire, io sono in sciopero al Comune di Roma, per quel giorno faccio saltare tutto. Sono in sciopero all'INPS, per quel giorno faccio saltare tutto. È chiaro che le pene rispetto a questa cosa, risposta rispetto a questa cosa, che poi oltretutto bisogna vedere se sindacalmente i sindacati sono disposti a collarsela, sarebbe molto molto più dura. Però finora è possibile che a nessuno sia mai venuto in mente di far saltare il database del comune se ci sono degli scioperi. Nessuno è venuto in mente di far saltare il database dell'Agenzia delle Entrate, manco per niente. Allora, è inutile che noi ci dobbiamo domandare quali sono i nodi che permettono il funzionamento di questo sistema e andare a scardinare quelli, perché altrimenti poi ci rimettiamo in prima persona facendo lo sciopero, ci rimettiamo i soldi, non arriviamo da nessuna parte, il sistema cammina per conto suo, perché se noi non andiamo al lavoro, i meccanismi digitali camminano per conto loro, continuano a accumulare dati, continuano a registrare gli utenti, continuano a fare tutta questa cosa. Quindi diciamo come meccanismi sono quelli che interessano al potere da mettere in crisi e in difficoltà. L'altra invece è una nota diversa. Allora, qui a Roma stanno studiando la fascia verde, no? Questo famoso ambito molto allargato di centro in cui non potranno entrare tutte le macchine che sono considerate vecchie, tutte le moto, i furgoni, nessuno. E adesso stanno cominciando i lavori da tutte le parti, Roma praticamente sta diventando tutto un cantiere, tra la fibra che mettono, il 5G, questo progetto di sistemare le telecamere in ogni dove, sta diventando tutto un cantiere. Oltretutto ci sono le quattro aree del centro storico, Trastevere, centro proprio, Testaccio e San Lorenzo, in cui non potranno entrare neanche gli umani che non sono residenti, anche se abitano lì, neanche a morire, o tu accetti di farti registrare, hai lo SPID, hai la carta d'identità digitale, compagnia bella, dichiari la residenza, altrimenti proprio non entri. Allora, l'altro giorno mi sono fermata, cioè l'ho fatto con più di un gruppo di lavoro, no? In tutti questi cantieri che hanno buttato sotto sopra tutte le strade, mi sono fermata e ho detto: scusate, che state facendo? E questi mi hanno detto, gli operai, lavori elettrici. Dico sì, ma che tipo di lavori elettrici? Lavori elettrici. E dico, scusate, ma non sapete quello che state facendo. Allora, da una parte c'è stata una risposta, diciamo, al limite dell'omertoso, dall'altra parte una risposta piuttosto menefreghista. Allora, il problema però è questo, che le cose le fanno le persone. Cioè, questi qui stanno riempiendo di telecamere, sono operai, hanno una responsabilità storica e politica, stanno riempiendo di telecamere e di annessi e connessi la loro città, i loro quartieri, e o non rispondono oppure se ne fregano. Allora c'è una responsabilità, cioè le cose le fanno le persone. Quindi, al di là del fatto che noi sappiamo il progetto del sistema, al di là del fatto che io sono d'accordissimo su tutto quello che è stato detto, che abbiamo scritto poi insieme, però c'è anche questo problema che pongo all'attenzione di tutti voi, perché le cose sono fatte da persone che hanno un nome e un cognome a tutti i livelli. Matteo. Sì, allora io volevo portare, diciamo, il racconto di quella che è stata un po' l'esperienza di costruzione di conflitto dentro i movimenti spuri di questi ultimi 3 anni a Lucca da parte del gruppo lavoratori e disoccupati di Lucca e provincia, che è un gruppo che in realtà, appunto, rispetto alla mobilitazione sul Green Pass eccetera, questo è un gruppo che è nato nel 2020 durante il primo lockdown, proprio nel mentre che eravamo chiusi in casa, come intervento appunto nella fase populista. E durante appunto la quarantena si è iniziati a raccogliere esperienze di lavoro e non lavoro, e sia appunto durante la quarantena sia immediatamente dopo, e inizialmente appunto erano raccolte di questi insomma testimonianze che venivano fatte tramite anche gruppi, diciamo, di community, gruppi Facebook di comunità, tipo come ci sono un po', c'erano un po' in tutta Italia, tipo Sei di Lucca, se queste robe qua, e che arrivavano quindi, diciamo, a un pubblico che era, diciamo, persone, insomma, comuni dei paesi, della provincia, della città di Lucca. Poi si è iniziati a fare questo sempre durante proprio il periodo in cui in realtà non si poteva andare da un comune a un altro, eccetera. Si è iniziato a fare attacchinaggi, volantini, agli unici posti dove si poteva comunicare, cioè i supermercati, su quella che era la condizione in quel momento di tutte le problematiche legate a quello che era la conseguenza della quarantena. E poi invece, quando si è iniziato a poter uscire, abbiamo iniziato a fare delle azioni in punti simbolici come INPS, centri per l'impiego, o contro i sindacati confederali, e facendo, insomma, sempre firmando lavoratori disoccupati di Lucca e provincia, e facendo comunicati ai giornali. E ora appunto racconto questo perché secondo me è interessante, diciamo, chiaramente non ci non sono soluzioni o cose del genere, ma secondo me è interessante a livello delle modalità, del metodo e dei linguaggi, ciò che noi abbiamo fatto, diciamo, già dal maggio del 2020, e che poi abbiamo proseguito fino ad arrivare a quello che è stata la mobilitazione No Green Pass. E noi abbiamo visto questo, abbiamo visto appunto nel 2020, noi abbiamo affrontato quindi poi le piazze No Lockdown, e abbiamo, per dire, quello che ci ha insegnato il 2020 è che una presenza, per dire, noi avevamo fatto una presenza nella piazza di Confcommercio nel periodo che c'era appunto Tu ci chiudi, tu ci paghi in Italia, innescata da Napoli, e però noi avevamo fatto una presenza all'interno appunto della Piazza Confcommercio per andare a vedere insomma com'era la situazione, e poi in seguito c'era stata una piazza che comunque era stata nostra ma autoreferenziale e che non aveva avuto collegamenti reali invece col movimento che si stava dando. E invece diciamo in seguito abbiamo iniziato a usare insomma modalità diverse più in connessione con quello che era il movimento reale. Noi abbiamo utilizzato comunque sempre appunto nell'attacchinaggio, volantinaggio, interventi politici un linguaggio che cercava di essere appunto in linea con quella che era la fase populista. E, per esempio, durante quindi la parte di Tucci più ti paghi, quando è iniziata la parte del 2021, non più 2020, quando c'era la questione del coprifuoco, dello stato d'emergenza, dei bar che venivano chiusi, se erano stati, cioè se venivano sanzionati, se erano stati aperti dopo una certa ora, eccetera. Noi abbiamo creato legami con questi bar, dato solidarietà, volantinato con insomma volantini, dove insomma a livello anche su un piano appunto di linguaggio grafico eccetera, per esempio un volantino nostro che comunque era diciamo funzionato a livello di recezione eccetera, era vogliamo vivere, vogliamo soldi, lavoro, e si andava diciamo si andava, era in un momento in cui tutti venivano già additati come qualsiasi persona che era critica alla gestione dell'emergenza veniva già additata come no mask, eccetera. Poi appunto è arrivato nel 2021, nel 2021 più in là, nell'estate, il movimento No Green Pass, anche a Lucca ci sono state le prime piazze, noi dalla prima piazza siamo andati e siamo andati a fare insomma un'analisi della composizione sociale, di classe e politica. E quello che insomma abbiamo fatto rispetto alla piazza autoreferenziale Tu ci chiudi, ci paghi invece dell'anno prima è stato fare un intervento che aveva nelle nostre rivendicazioni in pratica rivendicazioni che erano già presenti nella piazza comunicate con un linguaggio che era diciamo recepibile, cioè con un punto di vista di classe che noi avevamo inserito ma con un filtro di recepibilità da parte della specifica composizione sociale che noi avevamo visto presente. E per esempio appunto siamo andati nella piazza, nelle piazze quelle appunto No Green Pass, con interventi e striscioni, insomma volantinaggio eccetera, con frasi del tipo tolgono il lavoro mentre aumentano tutto, contro la sospensione del lavoro, contro il Green Pass che ci divide tra lavoratori e cose del genere. E quindi per noi diciamo è stato importante questo, il fatto che il linguaggio deve essere comunque quello del movimento reale, non il linguaggio del ceto politico che va a cercare che siano voti o militanti o eccetera. Quindi sì, l'inserimento di elementi di classe, ma che sono in realtà che devono completare un discorso che già quello che il movimento reale produce, e quindi niente, contribuire anche nei stati nelle assemblee no Green Pass eccetera, sempre cercando, ecco questo un altro punto che volevo dire poi finisco, con l'obiettivo dell'allargamento delle ragioni del conflitto volto a generalizzare lo scontro, quindi spostare l'indicazione del nemico, cioè da grande reset a appunto il rapporto sociale capitalistico, e non farsi appiattire su quello che divide il movimento, ma approfondire ciò che lo unisce contrapponendosi al nemico. E noi in questo, per dire, se nel 2020, nel senso durante la fase no lockdown, c'era la volontà di no lockdown e contro chiusure e coprifuoco, c'era questa volontà di dividere fra una parte di appunto bottegai, bar, piccole partite IVA da una parte e dall'altra lavoratori, famiglie, disoccupati, noi abbiamo cercato di tenere unita quella composizione, e nel 2021 anche nel movimento Green Pass abbiamo cercato di unire, contrapponendolo appunto al nemico, chi era vaccinato ma critico alla gestione della pandemia e solidale con chi resisteva, per dire Trieste, gli idranti, con i non vaccinati che erano esplicitamente no Green Pass, eccetera. E niente, vabbè, chiudo. Comunque questo poi lo stiamo riportando ora appunto nell'assemblea No Guerra, No Base che abbiamo a Lucca, e stiamo cercando di usare lo stesso metodo, stessi linguaggi. Per esempio una frase che usiamo è: la guerra della NATO si fa già al supermercato. Si fa già? Al supermercato. Cioè, io vado, quindi vi saluto prima di tutto, faccio due battute e poi vi dico una cosa. La prima battuta, il signore lì lui dice che ha trovato acqua in cui nuotare, io preferisco sempre la benzina da incendiare, per mia natura, perché sono fatto così. Ma non era in contrapposizione. No, lo so, è una battuta, però cerchiamo anche quella. E riguardo a quello che ha detto Elisabetta, è vero che pochi hanno conoscenze approfondite sul funzionamento del computer, però è anche vero che i computer vanno a energia elettrica e tutti sappiamo come si può danneggiare l'energia elettrica. Questo per chiudere questo aspetto. Poi io ho fatto una domanda nel primo intervento, avete risposto, no? Cioè avete risposto anche se non l'avete esplicitato, e io penso che sia importante. Se noi andiamo avanti a fare lotte settoriali, lotte nei momenti eccezionali, noi siamo perdenti. Noi dobbiamo ribellarci e lottare contro la normalità. E la normalità nel suo complesso che è criminale. Ed è quella che dobbiamo attaccare e combattere. Se non capiamo questo, loro vincono. Se noi riusciamo a capire questo e riusciamo a ribellarci alla normalità, abbiamo delle possibilità. Come ha detto il compagno, loro ci vogliono imporre come vestirci, come mangiare, come curarci, come respirare, come organizzarci, le compagnie. Noi dobbiamo ribellarci a tutto questo subito e attaccare, distruggere la loro normalità. Se riusciamo a fare questo, possiamo ancora farcela, se no diventeremo schiavi. Grazie, compagno. Mi porta via. Sì, adesso facciamo. Facciamo 10 minuti di pausa e poi ripensiamo al tutto.